giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il ministro Giulia Pordenone ha parole di approvazione per l'appello degli intellettuali per Gaza. Se non c'è violenza, dice, ogni posizione è libera di esprimersi e deve essere garantita ogni forma di disaccordo e dissidenza. Il ministro della Cultura ha inoltre espresso entusiasmo per la produzione culturale di Pordenone. Non si costruisca la sicurezza di Israele sui cadaveri dei bambini di Gaza, sono le parole pronunciate ieri sera in piazza Venezia a Trieste dal pediatra triestino ebreo Nathan Levi durante la manifestazione indetta dalla CGIL per fermare la guerra nella striscia. Parole che ancora riecheggiano tra quanti hanno partecipato alla serata. Il confronto tra due madri accomunate dallo stesso crudele destino, una israeliana e una palestinese che hanno perso i propri figli, questa sera a Trieste nell'aula magna della scuola per interpreti. Racconteranno del loro percorso di riconciliazione e di quello di altre 800 famiglie della striscia. Cerimonie in tutta la regione in occasione della prima giornata degli internati nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Il piombo usato nelle munizioni dei cacciatori è letale non solo per le prede ma anche per i rapaci che entrano in contatto con le carcasse. A Venzone una mostra e un convegno per abbandonare il metallo pesante che risulta tossico anche per gli umani. L'Udinese appare in forma smagliante e carica da un buon avvio di campionato per affrontare il Milan alle 20:45 al Friuli. Buongiorno da Lara Zani e Nada Ciocchi. Il ministro Giuli in visita a Pordenone ha espresso tutto il suo entusiasmo per la città definendo la capitale della cultura tutti i giorni. Sulla lettera appello firmata da oltre 200 scrittori intellettuali ritiene si tratti della libera espressione. Se non c'è violenza, ha detto, ogni posizione è libera di esprimersi e deve essere garantita ogni forma di disaccordo e dissidenza. Sentiamo i dettagli nel servizio. Pordenone è capitale della cultura tutti i giorni. Il ministro della cultura Alessandro Giulia, arrivato a Pordenone Legge, ha lodato la città e la manifestazione letteraria capace di promuovere, ha detto, non solo i libri ma la comunità di lettori, ripetendo poi quanto dichiarato nell'ultima visita istituzionale. Pordenone è un modello da seguire. Trovo una città che è entrata nel mio cuore da tanto tempo e che rappresenta un modello per tutta l'Italia. In mattinata è stato accolto da sindaco e prefetto assieme al ministro Ciri anni alla presenza di diverse autorità nella loggia del municipio con l'inno cantato dal coro di bambine e bambini. Gli abbiamo chiesto un commento all'appello per Gaza firmato da oltre 200 autori e autrici al festival. Viva la libertà, viva gli appelli di ogni ordine e grado, viva la dissidenza, viva la differenza delle idee, ma sempre un certo margine, come diceva Rino Gaetano. Se non c'è violenza, se non c'è imposizione, ogni posizione è libera di esprimersi e deve essere garantita l'espressione di qualsiasi forma di disaccordo e dissidenza. La dissonanza è un valore a volte. Sul tema è intervenuto anche il sindaco Alessandro Basso. Pordenone Legge è lo specchio dei tempi, è un momento di attualità, è un momento che guarda la cultura, si chiama un festival della libertà nel quale tutti possono esprimere la propria opinione. È chiaro che un festival che si occupa di libri, di letteratura, di cultura, di sapere, deve riflettere quello che è uno scenario geopolitico che è assolutamente inedito e complicato e pertanto non poteva esimersi da avere confronti su posizioni diverse, confronti su temi diversi, però penso con una matrice comune, quella che rimanga e debba continuare ad essere il festival della libertà e allo stesso tempo anche della pace. Il ministro Giulia poi ha annunciato l'acquisizione da parte del Ministero della Cultura della Casa del Mutilato, edificio anni 30 in centro città che diventerà polo culturale dedicato al Novecento. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Con la richiesta che si fermi il massacro di civili a Gaza e che si aprano i corridoi umanitari per i Gazawi allo stremo delle forze, diverse centinaia di triestini si sono radunati ieri sera in piazza Venezia per partecipare al presidio promosso dalla CGIL e da Emergency. Gli israeliani ci dicono sicurezza, ma la sicurezza non si costruisce sui cadaveri dei bambini. A dirlo è l'ex pediatra Nathan Levi, nato a Tel Aviv da genitori ebrei triestini arrivati in Israele per sfuggire alle persecuzioni fasciste e naziste. È solo uno degli interventi della manifestazione della CGIL che a Trieste ha concluso, dopo quelle andate in scena a Monfalcone, Pordenone e Udine, la giornata di sciopero e mobilitazione per Gaza organizzata dal sindacato e da Emergency anche in Friuli Venezia Giulia, come in tutta Italia. Una protesta contro quello che viene definito un massacro e una deportazione del popolo palestinese. Massimo Marega, segretario della CGIL, CGIL di Trieste. Di fronte al fatto che da 24 mesi stiamo assistendo a quello che tutti hanno visto in Palestina, serviva un atto politico per far sì che il governo italiano e il governo europeo decidano di intervenire. Luca Crevatin, del gruppo di Trieste di Emergency. Quello che stiamo vedendo a Gaza non l'abbiamo visto in nessun altro luogo di guerra in cui abbiamo operato. Diverse centinaia le persone arrivate in Piazza Venezia per condividere l'appello del sindacato e delle tante altre realtà presenti. Fermare la guerra, garantire corridoi umanitari e sospendere ogni cooperazione militare e commerciale con Israele fino a che non cesseranno le operazioni militari nella striscia e l'occupazione della Cisgiordania. Credo che le persone debbano avere il diritto di avere una vita e di viverla. E non penso che sia giusto lo sterminio che sta avvenendo in questo momento a Gaza. Non è accettabile appunto quello che sta succedendo in Palestina e a Gaza in questi mesi, in questi giorni. È come se la politica per dinamiche incomprensibili è bloccata, tocca ai lavoratori. Serve uno sciopero europeo dei lavoratori contro tutte le guerre, ma soprattutto queste due che ci lasciano senza parole. Trieste, Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia. Testimoni di una pace possibile, storie di riconciliazione tra israeliani e palestinesi, prosegue a Udine con la mostra Riconoscere i volti, costruire la pace, che sarà esposta sino a domenica nel chiostro della Basilica delle Grazie. La mostra racconta le vicende di chi riesce a costruire la pace anche in situazioni d'inferno. Alle 17.30 nell'auditorium delle Grazie si terrà l'incontro pubblico sul tema Quale speranza per l'Europa? Interverranno il professor Tommaso Piffer e Mattia Ferraresi, caporedattore del quotidiano Domani e per 10 anni corrispondente del Foglio dagli Stati Uniti. A Trieste questa sera due donne, una israeliana e l'altra palestinese, racconteranno la loro esperienza. Mayana Yon, israeliana, e Sima Mohamed Awad, palestinese, entrambe appartenenti all'associazione fondata nel 1994 e composta da più di 800 famiglie israeliane e palestinesi accomunate dalla perdita violenta di uno o più familiari. Mayana e Sima hanno scelto di non percorrere la via della vendetta, ma di intraprendere un cammino di riconciliazione. L'incontro si terrà nell'aula magna della sezione di studi e lingue moderne per interpreti e traduttori alle 21. In occasione della prima giornata degli internati nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, diverse le iniziative in regione. Il prefetto di Pordenone, Michele Lastella, ha consegnato ai familiari delle vittime le medaglie d'onore concesse dal Presidente della Repubblica. A Udine è in corso la cerimonia commemorativa davanti al monumento posto nell'atrio dell'ingresso monumentale del cimitero di San Vito. Quando nel 1945 tornò a casa dal campo di concentramento nazista in cui era stato internato, pesava appena 38 kg, deportato non perché ebreo né per la sua fede politica, ma perché lui, militare del Regio Esercito sbandato dopo l'8 settembre 43, ebbe il coraggio di dire no, non continuerò più a combattere per Hitler e per Mussolini. Martino Scovacricchi, udinese classe 1921, poi parlamentare tra il 76 e il 92, fu uno dei 650.000 internati militari italiani, di cui oggi per la prima volta in 80 anni la Repubblica commemora il sacrificio in attuazione della legge 6 del 13 gennaio 2025 varata all'unanimità dal Parlamento. Al cimitero di San Vito di Udine la cerimonia con le associazioni partigiane e combattentistiche e la deposizione di una corona. Furono tanti quanti i caduti al fronte nella Prima Guerra Mondiale, ma a differenza di questi ultimi, gli internati militari italiani, tra loro nomi come Mario Rigoni Sterne, Giovannino Guareschi, Alessandro Natta, Raffaele Pisu, Tonino Guerra, non furono riconosciuti, anzi caddero nell'oblio, perché la loro decisione di resistere senza imbracciare le armi contro il nemico in una massima dimostrazione di antimilitarismo e di non violenza non fu colpevolmente considerata autentica resistenza, ci spiegano dall'ANED, l'associazione degli ex deportati. Oggi si chiude un cerchio, si sutura una ferita rimasta aperta troppo a lungo nella memoria del paese. Tante le cerimonie su tutto il territorio regionale, in comune a Pordenone nella sala del consiglio, a Ronchi dei Legionari presso il monumento al deportato e a Butrio dove stamani a Villa di Topo Florio è stata inaugurata una mostra fotografica e documentaria intitolata 600.000 no a Hitler e Mussolini, visitabile fino al 28 settembre. Udine, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Vilma Braini Brajnik, partigiana goriziana arrestata nel 1944 dalle SS e poi dalla decima MAS per la sua attività nella resistenza, fu deportata a Bergen-Belsen. Ha una scalinata oggi che porta il suo nome nel centro del rione di Sant'Andrea, Gorizia, dove era cresciuta. Alla cerimonia, con lo scoprimento della targa questa mattina, ha partecipato il sindaco di Gorizia Ziberna, ricordando l'impegno di Vilma Braini Brajnik nel dopoguerra di trasmettere la sua esperienza alle giovani generazioni, anche accompagnandoli nelle visite ai campi di concentramento quando i cosiddetti viaggi della memoria non erano ancora istituzionalizzati. In 400 a Udine al sit-in per la sicurezza ieri sera ad ascoltare il fioraio Eddie Speranza che chiede le ronde e si scaglia contro le istituzioni. Ieri sera erano in circa 400 a manifestare a Udine contro gli ultimi episodi di violenza sfociati in risse e liti soprattutto tra i più giovani e i minori stranieri non accompagnati. Davanti alla loggia di Piazza Libertà, un lungo comizio in solitaria di Eddie Speranza, il fioraio portavoce del malcontento, ha caratterizzato la serata. Speranza ha ribadito l'intenzione di voler istituire ronde pacifiche di cittadini volontari per contrastare la delinquenza e il degrado. Ha contestato l'operato del sindaco De Toni per il rimpallo delle responsabilità con gli organi provinciali dello Stato e quello dell'assessore comunale alla salute Gasparin, colpevole, secondo lui, di non essere intervenuto dopo i gravi disordini avvenuti a fine agosto nella Casa dell'Immacolata, una struttura di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati. Ma ad essere preso di mira è stato il questore del capoluogo friulano, Pasquale Antonio Lorenzo, reo, a suo avviso, di non aver autorizzato un corteo di protesta per le vie del centro, ma solo un semplice sit-in. E di Speranza. Io mi aspetto delle scuse da parte del questore e del prefetto, non a me, ma a tutte le persone che sono venute qui e non hanno potuto camminare. Ribadita come l'iniziativa sia priva di colorazione politica e realizzata da persone che vogliono soltanto che Udine ritorni ad essere una città vivibile dal punto di vista della sicurezza. Io ho un centro di minori non accompagnati, la casa a fianco e non possiamo più vivere in Piazzale Cella. Per cui ho paura per mia figlia, ma ho paura anche per me. Quello che mi dispiace di non aver visto qui un politico, o meglio il sindaco, vice sindaco, o anche quelli del gruppo di Udine Sicura. Nessuno c'era. C'erano invece, a titolo personale, una cinquantina di ultra dell'Udinese, tenuti sott'occhio da un discreto numero di poliziotti e carabinieri, in una serata tranquilla, svoltasi senza alcun incidente. Udine, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. È stata inaugurata a Venzone, a Palazzo Rognani Martina, la mostra itinerante Il veleno dopo lo sparo, un evento dedicato agli effetti nocivi delle munizioni al piombo utilizzate nella caccia, colpevoli dell'avvelenamento della fauna selvatica. Ogni anno, infatti, in Europa muoiono di saturnismo oltre 2,3 milioni di rapaci. La mostra è stata arricchita anche dal contributo di ricercatori che hanno partecipato al convegno. Tra loro Fulvio Genero, direttore scientifico della Riserva Naturale Lago di Cornino, che ci ha spiegato perché è pericoloso il piombo delle munizioni impiegate per la caccia. Il piombo è un elemento molto tossico, uno tra i più tossici, ed è molto pericoloso perché entra nelle catene alimentari, può provocare non solo una morte per saturnismo degli animali, ma anche gravi difetti comportamentali, neurologici, che proprio mettono gli animali in grado di non muoversi o volare più nel modo adeguato. Comunque l'intossicazione è molto diffusa, ci sono studi un po' in tutto il mondo che provano appunto come i proiettili tradizionali in piombo provochino intossicazione acute e anche mortale di molte specie di fauna selvatica. Ci sono evidenze di questi effetti in Friuli Venezia Giulia? Ci sono molte evidenze, perché sia per quanto riguarda i problemi dei pallini di piombo che si utilizzano nelle zone umide in particolare, dove gli uccelli che si nutrono di questi, che si attacciano al fondo ingoiando le parti solide, a volte veramente come fenicotteri, anatre, eccetera, possono morire avendo ingerito troppo piombo. In alcune zone umide il piombo è stato proibito. Nel 2021 un provvedimento della Comunità Europea ha inteso proibirlo in tutte le zone umide, ma il governo attuale purtroppo ha inteso in modo diverso, limitandolo solo in poche aree. Infatti siamo anche in procedimento di infrazione da parte della Comunità Europea. Per quanto riguarda in questo caso noi, che ci occupiamo anche in particolare di uccelli rapaci e avvoltoi, abbiamo molte evidenze, nel senso che una delle principali cause di mortalità di questi grandi uccelli necrofagi, oppure parzialmente necrofagi, anche predatori, è proprio il piombo e il saturnismo. E abbiamo anche evidente noi nella nostra colonia di grifoni, perché abbiamo già perso un bel numero di grifoni per saturnismo. Quindi lo possiamo notare dal comportamento, no? Proprio, dicevo, le capacità di spostamento, di movimento, gli uccelli non riescono più a volare, perdono molto peso, e gli esami che vengono fatti poi grazie alla collaborazione con l'Università di Udine dimostrano l'altissimo contenuto di piombo nel sangue, tant'è che tutti i nostri grifoni sono contaminati da piombo e oltre le metà in maniera grave. Ci sono notizie quasi quotidiane di aquile che muoiono a causa del saturnismo, non essendo più in grado di volare oppure di spostarsi in modo regolare. Siamo a il meteo, il cielo è sereno su tutta la regione, le temperature registrate poco fa a Trieste 24 gradi, mare calmo con temperatura di 24 gradi e mezzo, Udine Gorizia 25 gradi, Pordenone 24, Tolmezzo 22 gradi, Forni di Sopra 22 gradi, Piancavallo e Tarvisio 21, Sappada 19, sull'Ussari 18 gradi, sullo Zoncolan 20, a Grado 24 gradi, a Lignano 23 gradi, temperatura del mare in entrambe le località 23 gradi. E vediamo le previsioni dell'Alfa del Friuli Venezia Giulia. Oggi pomeriggio cielo sereno e venti di brezza, temperature massime superiori alla norma del periodo, in genere di 5 gradi, caldo eccezionale in montagna. Domani cielo sereno o poco nuvoloso per velature ad alta quota, venti di brezza, inversioni termiche marcate di notte nelle valli, in pianura verso il Veneto e in Valcellina di notte fino al mattino possibili locali nebbie. A Pordenone Legge oggi ci sarà la consegna del premio Credit Agricole, la storia in un romanzo, allo scrittore spagnolo Ildefonso Falcones, che alle 18 al Teatro Verdi terrà un incontro sull'ultimo libro In guerra in amore. Ma il programma della giornata è vastissimo. Questa mattina Michela Marzano ha parlato del rapporto tra adulti e adolescenti, affrontato nel suo libro Qualcosa che brilla. Parla di ragazzi e di adulti, nel senso che i protagonisti sono 8 adolescenti, 8 ragazzi e 8 ragazze della generazione Z, ognuno dei quali ha un sintomo particolare, disturbi del comportamento alimentare, scatti di ira, attacchi di ansia, e delle loro famiglie. Perché quello che mi interessa era cercare di capire la grande fragilità, il grande malessere di questi ragazzi e di queste ragazze, e cercare di capire di cosa loro sono sintomi. Poi il titolo è Qualcosa che brilla, perché nonostante tutto i ragazzi e le ragazze brillano, ma gridano anche a noi adulti, genitori, insegnanti, educatori, di vederli e ascoltarli per quello che sono. Come si scrive un romanzo parlando di attualità ma rimanendo nel genere del romanzo? Guardando e ascoltando. Io sono partita dall'ascolto dei miei studenti e delle mie studentesse. Io insegno in Francia all'università, ma i ragazzi e le ragazze che arrivano, facendo un anno in meno di liceo, hanno 17-18 anni, ed è stato proprio ascoltando loro dopo la pandemia, dopo il lockdown. Erano ragazzi e ragazze molto diverse dai ragazzi e dalle ragazze di 10 anni fa, ed è stato guardandoli, ascoltandoli e sentendo anche le loro storie che ho avuto voglia di raccontarla. Pordenone, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. È stato presentato oggi il programma dell'edizione autunnale del Libro delle 18.03, arrivato al 18° anno di attività. Il presidente Paolo Polli ci ha raccontato la storia dell'iniziativa e illustrato gli appuntamenti principali. È nata per uno scherzo, la presentazione di un libro di un amico all'interno della stazione dei treni. Doveva essere quello un'unica presentazione, quasi per gioco, e da lì siamo arrivati ad oggi, 18 anni proprio ad ottobre. Oggi si presenta la prossima edizione autunnale. Che cosa proporrà? È un percorso lungo, fatto di 13 appuntamenti, sia nell'Isontino ma anche in Slovenia, come da nostra abitudine, con qualche sforamento in Friuli, perché abbiamo sempre accompagnato, oltre alle presentazioni dei libri, anche qualche uscita, fra virgolette, didattica sul territorio. Dedicheremo uno dei 13 appuntamenti ad un'uscita alla scoperta del territorio. Saremo a Tolmezzo, ovviamente la casa delle esposizioni di Leggio. Poi noi cominceremo domenica 28 settembre a Villa Codelli, a Mossa, con la lezione domenicale. In questo caso avremo ospite Daniele Marini, che è professore di sociologia dei processi economici all'Università di Padova, a parlarci di giovani e del lavoro. E continueremo ovviamente con autori molto conosciuti a livello nazionale, ma anche scrittori già conosciuti a livello regionale a Gradisca. Noi concluderemo questo percorso con Pascal Bonafont, non uno scrittore, ma un artista molto noto a livello nazionale, che è Jafet Jack. E parliamo dell'edizione numero 57 della Barcolana, che a terra si allarga ulteriormente proprio per il villaggio Barcolana, riaprendo uno spazio chiuso nella zona di Cavana che fungerà da punto di aggregazione. La presentazione questa mattina. Mitejalu apre un nuovo spazio nel cuore di Trieste, ma è molto più di un negozio o di un infopoint. Sì, è un emporio che evoca la vecchia Trieste, il vecchio borgo di pescatori che era Cavana. Non a caso partiamo da qui, perché Cavana deriva da capanna, erano le tettoie sotto le quali venivano protette le barche nel 500, nel 600, prima che ci fosse poi lo sviluppo del borgo teresiano. E da qua ripartiamo per trasformare il centro di Trieste in un borgo marinaro in occasione della Barcolana, una città in festa che garantirà una nuova fruizione dell'evento, non più solo sulle rive, ma anche al centro della città, perché ormai l'affluenza è tale che dobbiamo differenziare. Anche per evitare l'effetto sagra e l'effetto di chi alza volume di più a più clienti, una maniera per regolamentare la festa dal giovedì alla domenica sera. Assolutamente, abbiamo ascoltato le critiche di chi riteneva che Barcolana avesse una componente enogastronomica un po' anarchica, e abbiamo voluto insieme al Comune di Trieste regolamentare per garantire maggiore qualità nel cibo, nell'esperienza musicale e nella fruizione dell'evento. Tanta cultura, cultura del mare, tanta arte, musica, fotografia, letture di classici triestini e non solo, e devo ringraziare gli esercenti del quartiere che hanno risposto con entusiasmo che è andato al di là delle nostre aspettative. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo allo sport con il calcio. Stasera l'Udinese gioca in casa contro il Milan, fischio d'inizio alle 20:45. Si affrontano due squadre che appaiono in ottima forma e che cercano continuità. 7 punti in 3 partite, compresi quelli portati a casa con 2 vittorie in trasferta contro i nerazzurri pisani e soprattutto milanesi. E adesso nel mirino dell'Udinese c'è l'altra squadra di Milano, quella rossonera, apparsa in ottima condizione nell'ultima uscita contro il Bologna, grazie anche ad un Modric che è sempre comunque un piacere per gli occhi, anche degli avversari. Ce n'è abbastanza per solleticare il palato dei tifosi, pronti ad affollare le tribune del Friuli, in una partita dove mister Allegri, che nel frattempo si è rimesso la giacca, vuole ottenere continuità. L'allenatore bianconero Rugnaic ha a disposizione tutta la rosa, compresi Baiò e Lovric in fase di recupero, più Zaniolo che comunque, ha chiarito il tecnico stasera, non partirà titolare. Obiettivo dichiarato: mantenere l'attenzione sempre alta e ottenere più costanza rispetto all'anno scorso. Tra gli avversari, osservato speciale oltre a Modric anche Rabiot, in un Milan che, sempre secondo Rugnaic, arriverà in alto in classifica. Nella conferenza stampa di ieri nessuna anticipazione sulla formazione, ma con queste premesse la stampa specializzata scommette sulla riconferma degli 11 che hanno vinto all'Arena Garibaldi, con l'unico ballottaggio tra Camara e Zemura come esterno sinistro, e la riconferma in avanti accanto a Davis di Iker Bravo, autore del gol partita una settimana fa. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. E domani, dopo il giornale radio delle 8:30, va in onda la nostra rubrica radiofonica di agricoltura Vita nei Campi. Sentiamo le anticipazioni. Vita nei campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai, parla di agricoltura e giovani imprenditori domani tra chi eredita l'azienda di famiglia e chi parte da zero. A seguire gli odori della vendemmia, rito finale della stagione agricola con Angelo Floramo, poi il variopinto mondo dei cavolfiori, coltivarli e proteggerli dai parassiti, la birra come campo di battaglia nel Medioevo, la guerra del luppolo e ancora Slana Scuta, l'antica ricetta per conservare la ricotta delle valli del Natisone, dal riscaldamento delle serre ai concimi al lavoro, perché mazzi e vasi di fiori costano sempre di più. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni meteo e proverbio friulano della settimana. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia. Grazie per essere stati con noi. Questo giornale radio è stato redatto e condotto da Lara Zani e Nada Ciò, con la collaborazione tecnica di Giuliano Pecorari e Federico Comar. Ha collaborato in redazione Paolo Nuzzo. Da tutti noi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.